ogni uomo è come un attimo del tempo che viene stato e non si ripeterà mai più. Ogni uomo ha un valore immenso che niente e nessuno potrà mai acquistare. Non è la pelle, non è l'abito povero, non è l'età, non è il suo denaro. Chi ti potrà far dire quanto un uomo vale? Ogni uomo vale quanto un altro uomo, ogni uomo vale. Ogni uomo vale quanto noi stessi, ogni uomo vale. Se un uomo piange, tu piangi, piangi con lui. Senso la vita mia, se io rido per far ridere, ma Quando ti han colpito e la notte scende già e le tue ferite nessuno guarirà. Quando quando senza tregua spalle al muro ti sentirai, quando ogni uomo tuo nemico diventerà. Apri gli occhi, guarda in alto, quella forza che ti senti dentro ancora adesso ti solleverà. Quando il mondo vuoto di cartoni ti sembrerai, per lottare ancora un appiglio cercherai. Quando con terrore il fiato addosso sentirai e attorno a te questo cerchio si stringerà. Apri gli occhi, guarda in alto, quella forza che ti senti dentro ancora adesso ti solleverà. Apri gli occhi, guarda in alto, quella forza che ti senti dentro ancora adesso ti solleverà. Il Signore del cosmo si è fatto uomo come me e te, ha trasformato il dolore per farci diventare come lui, e lui la forza che ti senti dentro ancora adesso ti solleverà. Per farci diventare come forza che ti senti dentro ancora adesso ti solleverà. Non è forse lui che ha preso su di sé ogni nostro male, il niente che c'è in te? E forse lui l'amore vero, che non ha misura, un amore che è follia. Non è forse lui il segreto che ci fa dimenticare tutto e dare la felicità? Che ti senti dentro ancor più in alto ti solleverà. E puoi diventare come lui, e lui la forza che ti senti dentro ancor più in alto ti solleverà. E puoi diventare come lui, e lui la forza che ti senti dentro ancor più in alto ti solleverà. Cominciare è come rinascere e rivedere il sole in un mondo di libertà, e credere che la vita si rianima davanti agli occhi tuoi senza oscurità, e sapere che ancora tu puoi sperare. Ricominciare è come rinascere dall'ombra di un passato che ormai non conta più, ritornare semplici, cercando nelle piccole cose la felicità. È costruire ogni attimo il tuo domani. Senza confini, dove il pensiero non ha paura, e vedere la tua casa diventare grande come il mondo. Ricominciare e credere all'amore, e sentire che anche nel dolore l'anima può cantare. Con noi, Signore, se non male, resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte non vedrà. Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con noi, Signore, se da mai, resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte non verrà. Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui. Sembra che le stelle siano felici, luce si confonde con vapori grigi, quanto fanno male ai miei occhi. Passi di danza sull'asfalto nero, alberi dipinti su uno sfondo spento, gabbie di cristallo siede mirato cielo, cemento e metallo fanno da scenario, leggere il giornale amati. Missili in casa non vi fa paura, pensieri rassegnati, nudi sentimenti, gente cammina in questa storia, pena e passi miei. Che puoi guardare con volto sereno. Voglio un giorno svegliarmi al mattino senza la voglia di richiudere gli occhi. Ci sarà che non si stanca di dare. pensiero pallido. Domani sarà il giorno più bello. Con le così tutto è attorno a te, se solo gli darai calore. E sai, l'amore in te è un sole, il sole dell'amore il mondo solleverai. Conviene spendere bene la vita che hai. Nel mondo vedi tutto passa, dei vuoti d'aria troverai, ma con l'amore tu vivrai. Nell'amore quel che vale è amare, chi vive accanto a te oppure il tuo rivale. Se sei pronto a dare la tua vita per amare gli amici tuoi, la gioia che non hai avrai. E piano piano in te la vita rinascerà, sotto il sole, sotto la pioggia avanzerà. Amare certo è dura lotta, ma tu alla fine vincerai. E dentro te la storia cambierà. Gli astri del cielo in un concerto da Certo d'armonia.